Mix 24 di Giovanni Minoli. L'Ufficio parlamentare di bilancio definisce le previsioni sul PIL significativamente fuori linea. La Corte dei Conti rileva che il nuovo quadro macroeconomico si presenta non privo di elementi di fragilità. Il PIL all'1% nel 2017 è un obiettivo ambizioso, dice Luigi Signorini, vice direttore della Banca d'Italia. Dubbi inoltre sulla manovra dalla Corte dei Conti, che parla di margini stretti e coperture impegnative. Bene, questo è quello che è capitato in Commissione Bilancio a Camera ieri dopo la presentazione del DEF. Tutti gli intervenuti sostanzialmente hanno criticato fortemente le proposte del ministro Padoan. Qui con noi al telefono dovrebbe esserci il presidente della Commissione Bilancio, che è Francesco Boccia, col quale ieri abbiamo già parlato di quello che avrebbe potuto capitare, ma che in realtà è capitato ieri in Commissione. Abbiamo qui ospite, lo salutiamo, il senatore Giulio Tremonti, anche lui qui per parlarci delle sfide della contemporaneità prese dal punto di vista delle pagine del suo libro Mundus Furiosus, di cui parleremo naturalmente ampiamente nel corso della trasmissione. È arrivato l'onorevole Boccia, che saluto, ritardatario, bravo. Ieri, traffico di Roma. Ieri nella sua commissione bilancio abbiamo detto sul DEF si è consumato un dramma, è vero? Beh, ieri non è stato approvato così come da previsione la nota di aggiornamento al DEF. C'è stata una discussione. I drammi sono altri quando si muore, però diciamo che è stata una voce unanime di critica con toni diversi, anche la Banca d'Italia con educazione, con ironia, però ha contestato i numeri del governo, è così? L'ha definito ambizioso. Ambizioso, l'ambizione è una bella cosa, però insomma, ambizioso e realistico anche oppure no? Non era completo, nel senso che io ho già ribadito al ministro Padoan che la nota aggiornamento al DEF doveva essere in linea con la nuova legge di bilancio, invece assomigliava alla nota aggiornamento al DEF dell'anno scorso. Senta, l'ufficio parlamentare di bilancio è stato un po' più duro, ha fatto di peggio, è andato oltre. Che cosa ha detto? L'ufficio parlamentare di bilancio ha il dovere di validare o di non validare una nota al DEF e non l'ha validato. Non l'ha validato, e questo che effetti ha? Nelle prossime ore ha l'effetto che il Ministro dell'Economia deve integrare i dati, i numeri, e deve consentire al Parlamento di capire meglio perché su consumi interni, investimenti fissi e esportazioni il MEF dice una cosa e l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ne dice una completamente diversa. Se il Ministro dell'Economia integrerà queste informazioni, metterà il Parlamento nella condizione di capire meglio quali sono gli obiettivi, e l'UPB potrebbe anche cambiare idea. Io ho rimproverato al ministro Padoan il fatto di non aver rispettato la nuova legge di bilancio. Se ci fossero state quelle informazioni, forse questo dibattito non ci sarebbe stato. A me sembra che Padoan ha detto vado avanti lo stesso così, non ha preso, forse ho capito male, non lo so. No, ha capito bene. Io penso che ieri, se fosse stato consigliato meglio, probabilmente avrebbe avuto un atteggiamento più cauto, avrebbe accettato il consiglio di fornire integrazioni e magari poteva dire la stessa cosa tra una settimana dopo un ulteriore confronto. Ma c'è un conflitto fra Renzi e Padoan sui numeri del DEF, secondo lei? Non lo so, certo quello visto ieri non è stato uno spettacolo edificante. Senta, Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, a proposito del Monte dei Paschi, ha parlato di una vicenda opaca con la cacciata dell'amministratore delegato Viola, con un SMS che poi è stato chiarito, è stato scritto dopo la telefonata del ministro Padoan. Comunque Marco Carrai, amico di Renzi, è intervenuto su Viola, ecco, ma Carrai non è operativo in queste vicende che riguardano il Ministero dell'Economia, è una cosa grave, non è grave? Padoan deve reagire, che cosa capita? Ma guardi, ho letto io anche queste cose, io non so che ruolo abbia Carrai e non so come è andata dentro il MEF, so come è andata fuori, è fuori andata che JP Morgan e le altre banche che farebbero parte di quel consorzio hanno consentito al Monte Paschi di Siena di comprare tempo con un prestito ponte, tempo che costa caro, nel senso che se tu paghi la bolletta di JP Morgan è, se tu paghi quasi 500 milioni per un prestito ponte di 5 miliardi e i soldi che presta JP Morgan e le altre banche sono solo 3 miliardi e 6 e guarda caso coincidono con le GACS che sarebbero le garanzie di Stato, un prestito così lo faremmo anche io e lei se avessimo i soldi, nel senso che sarebbe a rischio zero e con il massimo, diciamo, del profitto possibile. Ma io ho consigliato più volte, ma sono stato inascoltato, di mettere soldi veri, magari dentro Atlante, magari attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, non al 51 ma magari al 49%, e di chiedere a quelle banche, a partire da JP Morgan, di mettere per una volta nella loro vita soldi veri e di rischiare dentro Atlante. Invece che prendere solo commissioni, dice. Ma il ministro Padan dovrebbe reagire a questa invasione di campo oppure no? Ma perché lei è così convinto che Padan non sapesse nulla di tutto io non questo. Sono convinto di niente, io faccio solo il cronista. E io non ho informazioni, sono in Parlamento e diciamo, Tremonti, sono controparte. Senatore Tremonti, da ministro del Tesoro del governo Berlusconi, lei si è trovato in situazioni anche peggiori, ha dovuto affrontarle, peggiori di quelle di Padon. È normale quando si governa l'Italia? Che cosa? A trovarsi in situazioni drammatiche. Ma dipende, noi ci siamo trovati nel 2008 davanti alla crisi mondiale drammatica e tutto è stato molto più drammatico di adesso. Allora era lo scenario del mondo, adesso mi sembrano situazioni critiche, ma molto, molto specifiche. Molto specifiche, ma lei cosa fa? Ha visto come sono diplomatico? Molto, sembra un altro Tremonti, chi la riconosce? Posso tornare, anzi la stupirò ancora di più. Mi dica, vuole essere ancora più diplomatico? Sì, no, anzi, sì. Volevo suggerire, come dire, una difesa e una spinta al governo sulla finanziaria. Allora, in fondo stiamo parlando di decimali, 0,6 certo. Più 0,4, sì. 1. L'anno scorso il Presidente del Consiglio diceva l'Italia sarà la locomotiva d'Europa. Quindi per una locomotiva d'Europa, un traino di quel tipo, siamo qui allo zero qualcosa. Onestamente c'è qualcosa che non va. Dov'è la diplomazia, scusi? L'altra cosa, adesso è il suggerimento. Mi pare come di capire che un conto sono, diciamo, le previsioni, un conto sono le previsioni sui dati, un conto è aggiungere alle previsioni sui dati gli effetti dell'azione di governo. Sì. Se non ho capito male, aggiungono qualche zero, qualche decimale, perché sarebbero gli effetti del mancato aumento dell'IVA, giusto? E cioè dire, se si calcola la scelta di non aumentare l'IVA, allora aumenta anche il PIL. Allora, il suggerimento che darei, non aumentarla di 2 punti, ma addirittura aumentarla di 4, così siamo fuori da ogni problema. Beh, se per quello sarebbe... Se per quello... Sì. No, l'aumento dell'IVA, siccome le clausole si scaricano su 3 anni, sul 18 e 19 sono rimasti gli aumenti di IVA, e in parte ragione Tremonti, per questo si trova poi un PIL molto più alto nel 18 e 19, poi sistematicamente si riabbassa. Appena disinneschi l'IVA. Seriamente, se tu fai un provvedimento e quel provvedimento comunicato prima e con i suoi effetti nella realtà economica fa salire il PIL, va bene. Ma questo dell'aumento dell'IVA, se lei va per strada e dice aumenterebbe, ma in realtà non aumenta, quindi aumenta il PIL, nessuno capisce un tubo. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. No, questo è vero. Comunque lì il tema vero, oltre all'aumento dell'IVA, come ricorda Tremonti, ricordo che è l'onorevole Boccia che parla. Oltre all'aumento dell'IVA è l'impatto che il MEF prevede dell'aumento del deficit PIL dal 2 al 2,4. Qual è l'errore della nota di aggiornamento al DEF? È che hanno trasmesso Una nota con il rapporto deficit PIL al 2% e il PIL aumentato già all'1%. Invece il PIL con il deficit PIL al 2% sarebbe lo 0,6. aumenterebbe utilizzando il deficit. Però scusa, parlo in italiano. Allora, quello 0,4 in più, che in teoria è flessibilità, in realtà è maggior debito, se fosse vero che è destinato al terremoto, quindi a ripianare danni, o all'immigrazione, cioè a gestire un altro danno, non vedo che effetto sul PIL c'hai se devi ripianare i danni o se devi usare i soldi per gli immigrati. Perciò c'è il confronto su consumi interni, investimenti fissi. Ma quali consumi interni degli immigrati? Certo, perciò dico c'è il confronto sui numeri. Sono spese esterne. Vabbè, andiamo avanti però, perché qui diventiamo troppo tecnici. Volevo sapere sull'affare dell'MPS, dopo l'articolo di De Bortoli, le correzioni e gli aggiustamenti, ma che cosa bisognerebbe aspettarsi, onorevole Boccia? Qualcosa o no? Io penso che possa solo intervenire lo Stato con soldi veri per garantire quell'aumento di capitale. Il mercato oggi non è in grado di garantire quell'aumento di capitale. Tremonti, pensa anche lei? Beh, può essere vero, ma secondo me è tutta una catena di false valutazioni. Quando arriva la crisi, la parola crisi vuol dire rottura di continuità, invece è stata gestita e pensata da molti, da troppi, come se fosse solo un ciclo economico negativo. E l'ultimo, siamo arrivati, quando è stato votato il divieto per gli stati di salvare il risparmio popolare, quindi diciamo 2 anni fa, non avevano capito che cosa era la conseguenza, perché non avevano capito qual era la causa permanente della crisi. Adesso si ritrovano con la crisi che sta per riesplodere, per esempio per una volta in Germania, sulle banche. E hanno bloccato, autobloccato essi stessi gli strumenti di intervento. Io ho votato contro questa roba qua, gliel'ho anche detto. Tutte le supreme autorità hanno votato a favore, adesso dicono dovremmo votare. Stiamo parlando del Belin. Esatto, cioè, ma in che mani siamo? A Mario piaceva tanto il Belin. No, io sono per aveva una logica. Non usare soldi pubblici. È comunque, insomma, questa cosa della Deutsche Bank si risolverà con un intervento pubblico. Alla tedesca. Questo non è male. Lei dice sempre, a proposito di alla tedesca, lei dice sempre che non bisogna stuzzicare troppo la Germania. No, io ho sempre avuto intense e profonde discussioni con la Germania. Se discuti ti rispettano. È un pochino diverso. Poi alla fine per salvare le loro banche esposte sulla Grecia e sulla Spagna e per usare i soldi italiani hanno fatto saltare il governo, ma questa è stata la scena finale. La scena finale a cui lei ha partecipato come protagonista. Andreotti diceva, a proposito della Germania, diceva: amo tanto la Germania che preferisco averne due. Saggezza. È una grande saggezza. Senta, senatore Tremonti, appena uscito il suo libro, per questo anche lei è qua, Mundus Furiosus. Come mai questo titolo? Dunque, il titolo, questo è il secondo libro che si chiama Mundus Furiosus, Mondadori. L'altro è uscito nel 1597, Narratio Sive. La prenderà lontano. Racconti tutto quello che è capitato in mezzo. Ha un senso. Quando scoprono le Americhe, si rompe il vecchio mondo, inventano nuove religioni più business friendly per sfruttare gli spazi atlantici. Si diffonde la stampa. Capitano, la prima Brexit fu fatta con lo scisma inglese che mandò a quel paese la Chiesa di Roma, che era l'Europa di adesso. Va bene? E il 600 è stato pure un secolo di grandi caos. Conclusione: enormi cambiamenti in 2 secoli. Io inizio il libro notando quali cambiamenti sono avvenuti in 20 anni, negli ultimi 20 anni, un pezzo della nostra vita. Se guardi indietro, 20 anni fa c'erano ancora gli stati, non c'era Schengen, non c'era la globalizzazione, non c'era l'euro, non c'era internet. In 20 anni è capitata una rivoluzione, non c'erano le migrazioni. e cioè dire mai nella storia dell'umanità un cambiamento così violento è avvenuto così in un poco tempo così breve. Questo lei l'ha già scritto. Sono lo 20 dice, anni certo. che scrivo questa stati cosa, senza sì. ricchezza, esatto. il fantasma e la povertà. Adesso... Ecco, il primo dei cinque punti su cui il suo libro, diciamo, si sviluppa è dedicato alle migrazioni di massa. Perché il primo fronte? Perché la novità? Il libro dice non è finita, infatti no, è una certo crisi no. e abbiamo alle spalle quello che è già successo e davanti cinque fenomeni, rischi. Allora, si dice immigrazione, sì. togli l'im, sono migrazioni, sì. cioè il ritorno di un passato che pensavamo scomparso da mille anni. Sono causate, se volete molto in sintesi, sì. da due fatti. Uno, le televisioni. Sì. Questo l'avevo scritto nel 95. Le televisioni, trasmettendo l'immagine del nostro benessere, attirano masse crescenti di popolazione, per essere chiari, dall'Africa. Secondo, le guerre. E cioè dire, quando l'Occidente, per esportare la democrazia, come se fosse un McDonald's, rompe schemi di paesi totalmente diversi e gli porta alla guerra. Guardiamo la Siria, stavano meglio 10 anni fa o stanno meglio adesso? Ma che cos'è il terrorismo patriottico di cui lei parla? Se tu patria è pater ed è la terra dove riposano le ossa dei tuoi genitori, se tu pensi di rompere di colpo quegli schemi esportando il tuo, tu crei delle reazioni. La profezia fatta tantissimi anni fa da un filosofo terribile, Carl Schmitt, era il filosofo di Hitler, e dice il terrorismo di questo tipo troverà la sua patria nella sua religione. Torto ha ragione, ma è un dramma. Già preso. Ed è il secondo fronte che individua è quello della degenerazione della finanza. Ecco, la degenerazione della finanza la stiamo vedendo. Voluta da chi? No, ha perso il controllo, cioè la finanza si è sovrapposta all'economia, si è sviluppata, adesso è passato tutto alle banche centrali che stavo per dire stampano, neanche stampano, schiacciano un pulsante, ogni mese viene fuori 80 miliardi di euro in Europa, dove vanno, cosa servono a un tubo. E la massa della finanza è uscita ormai dal controllo anche da parte delle banche centrali. Cioè, e questo è cominciato quando si è deciso di? Quando inizia, con la globalizzazione si immagina che la finanza sicut ad eus, il mercato, possa sovrapporsi all'economia, al lavoro, alle imprese, è un altro mondo. E invece siamo sommersi di carta virtuale, diciamo, grosso modo. Grosso modo, tu guarda. Ci sarà una ragione, il denaro adesso non rende più niente. Il tasso zero, come diceva Marx, che sulla politica magari è esagerato, ma in alcune analisi ci prendeva, diceva quando ci sarà il tasso zero sarà la fine del capitalismo. Ci siamo. Speriamo ci siamo. Di no, però oggettivamente quando tu vai in banca e non ti danno niente, anzi ti prendono, anzi hai paura del bail-in, magari qualcosa che non va c'è. Ecco, ma la rivoluzione digitale, che è il terzo punto, che cosa ha cambiato nel rapporto fra gli stati? Ma se uno vuole capire il voto in America, comunque è determinato dalla migrazione dei capitali, cioè la deindustrializzazione, i colletti blu che non c'hanno più il posto di lavoro, e soprattutto nel ceto medio dalla paura di perdere il lavoro d'ufficio. Certo. Ai vecchi tempi avevi il tavolo con sul computer, adesso c'è il computer senza l'uomo. E questo ha un effetto devastante per il ceto medio. Il medico non sarà più medico perché c'è il computer. E poi per tutto questo. Ecco, onorevole Boccia, lei si è occupato tanto di questo tema della rivoluzione digitale e della lotta, poi in qualche modo, anche Tremonti, alle over the top e alla loro superpotenza senza regole, diciamo così. Cambia qualcosa? Cambia tutto. La rivoluzione digitale è l'ennesima trasformazione del capitalismo, a mio avviso ancora più dirompente delle rivoluzioni capitalistiche che abbiamo nel tempo che abbiamo alle spalle, che certamente ricostruirà Giulio Tremonti con il suo libro, è più dirompente dell'energia a vapore, più dirompente dei telai, più dirompente dell'energia elettrica e dei computer degli anni 60. Il digitale consente una concentrazione di ricchezza che non c'è mai stata prima sul pianeta. In alcune parti del mondo non è mai esistita un'azienda che da sola valesse più di Borsa Milano. Oggi Amazon vale lo 0,8 di Borsa Milano. E quindi? E quindi tocca alla politica regolare questi fenomeni. Ma la politica ha ancora la forza? La politica, se non ha la forza, non è più politica, è un'altra cosa. E significa essere ancella di un gruppo o più gruppi di potere. Io rifiuto l'idea, la rifiuto categoricamente, la politica non possa intervenire. Deve intervenire, deve avere la forza di regolare questi fenomeni. Ce la può avere, onorevole Tremonti, senatore Tremonti. Io nel mondo vedo il ritorno dei popoli. Lo vedo nel voto che americano. C'è in Europa, il voto in America. Ha ragione Boccia, il punto è in questa fase ancora capire. Questi enti sono e si autochiamano repubbliche digitali, sì. E dicono siamo la forma moderna dello Stato, noi facciamo le nuove strade, le autostrade informatiche, certo. Battiamo la nostra moneta, il Bitcoin, siamo i dominatori della conoscenza e quindi della democrazia. L'alternativa è la democrazia senza la parola digitale, e prima devi capire la potenza infernale che hanno queste strutture. I popoli stanno cominciando a reagire. Sono i popoli che tanti soldi come non ne ha mai avuto alcuna azienda al mondo. E tra l'altro oltre gli stati nazionali. Lei ha mai sentito un amministratore delegato di una grande impresa dire se mi fate arrabbiare riporto i miei soldi offshore negli Stati Uniti? E Tim Cook è venuto in Italia, in Europa, e di fronte alla sanzione possibile della Commissione Europea ha detto se continuate io mi arrabbio e sposto parte dei miei 280 miliardi. Ma lei sa cosa stiamo facendo in Italia per accumulare una decina di miliardi? Lo 0, lo 0,2, lo 0,3. Aumentate l'IVA che aumenta il PIL. Ho l'Irlanda addirittura che di fronte alla possibilità di incassare 13 miliardi, quindi, pari al costo della sanità di un anno, dice no, non li voglio. Non li voglio. Cioè, l'Irlanda è già diventata... Ma quindi il Papa, per introdurre una variante, il Papa che parla di terza guerra mondiale a pezzi, in qualche modo disegna uno scenario che ha queste caratteristiche. Ha detto non solo a pezzi, tutta intera, no. L'altro fatto è il ritorno del colonialismo, parola proibita, ma in realtà c'è gente che fabbrica isole artificiali nel Pacifico, gente che si estende per aree di influenza, che è la tipica parola che si usava nell'Ottocento da parte dei colonialisti. Tutto è in movimento. Per esempio, dopo la Brexit, sì, a Mosca hanno scritto non è l'Inghilterra che lascia l'Europa, ma è l'Europa che lascia l'America, evocando la grande questione secolare, potenze di terra verso potenze di mare, l'Atlantico o il continente? Ovvero la solita domanda, Waterloo, fu una vittoria o fu una sconfitta? E per chi? Beh, la bella domanda mi sembra interessante. Mario, tu ne hai una prima della pubblicità da fare, sì, a Tremonti, no, e a Boccia? Me ne ero preparato una per Giulio Tremonti e per Francesco Boccia, ma la cambio perché la cambio perché no, il dibattito è talmente interessante, sì. Però io sono rimasto sinceramente colpito dal successo dell'emissione del nostro BTP al 2,85%, sì, a 50 anni. Ora, mezzo secolo, voi dovete immaginare l'investitore che va a comprare una cosa che scade tra 50 anni. Per i suoi nipoti. Ora, questo è l'effetto dei tassi negativi. Certo. E come diceva Tremonti, pur di cercare un rendimento positivo. Ma questo, lo chiedo a tutte e due, porterà inevitabilmente al crollo, perché è contro tutti i fondamenti dell'economia. Non è possibile. Tremonti? Se per quello l'Irlanda ha fatto emissioni a 100 anni, per dire della follia. No, fare emissioni a lungo ha un senso, ma su 50 anni, se tu presti del denaro a uno, e comprando titoli presti del denaro all'Italia, metti in conto cosa sarà il tra destino, il futuro, tra mezzo secolo di questi tempi, è certamente un elemento di relativa diciamo follia finanziaria. Follia finanziaria. Per finire, sull'Italia incombe in questo momento, e questa forse è una delle cose che dovrebbe considerare il governo, la maggioranza. Noi abbiamo il terzo debito pubblico del mondo, senza avere la terza economia del mondo. Abbiamo avuto una rendita, un regalo causato dai tassi negativi, cioè tutto l'indebitamento che è stato fatto in questi anni è costato molto poco. Siccome prima o poi i tassi risalgono, può essere relativamente bene per lo scenario mondiale. È una tragedia per l'Italia. Allora, ragionare come se questo rischio non ci fosse è, devo dire, molto irresponsabile. D'accordo, Boccia. Sì, io devo dire che insomma, nell'anno che abbiamo alle spalle abbiamo pagato il più basso costo di interessi sul debito degli ultimi 20 anni, 67 miliardi. Quando c'era Tremonti ne pagavano 80, 82, 83. Non sarà sempre così. No, non sarà così. L'Italia fa bene se può indebitarsi a 50 anni al 2,5%, perché uno Stato fa i propri interessi. È ovvio che per il sistema economico quelle emissioni servono solo a far girare carta e a riempire i portafogli. Pietrangelo, tu? Una domanda? Se posso dire, quando i tassi salgono, l'impatto sull'Italia sarà doppio. Sì. Dovrà pagare di non più. Non c'è dubbio, però l'Italia in questi anni ha strutturato in lungo il debito, quindi un po' se l'è aggiustato. Ovviamente se alzano i tassi si paga di più. Se si alzano i tassi sulle emissioni nuove paghi di più. Sì, ma abbiamo allungato il debito. L'altro aspetto, io ho una qualche esperienza in memoria, parte la speculazione. Perché un paese che ha fatto questo si ritrova esposto alla tempesta un minuto dopo, non che salgono, ma che si sa che salgono i tassi. Non avere gli strumenti per gestire. Si chiude l'ombrello di Draghi. Vorrei tornare al Mundus Furiosus. L'Europa non dà più il senso della storia alla storia. 500 anni dopo siamo arrivati al compimento, quindi l'abbandono di ogni sacralità e di ogni orizzonte metafisico. E però l'attualità ci dice che c'è una potenza europea, profondamente europea, che riesce a dare il senso. Ed è la Russia. Non crede che schmittianamente possa essere l'elemento che restituisce finalmente al nostro continente un rango di potenza di mare, e non più di terra? L'Europa dell'Atlantico agli Urali di De Gaulle. Questo. Ma tant'è vero che loro sono venuti in Siria apposta per un dettaglio che si chiama Mediterraneo. No, dunque, che... Facciamo la pubblicità e dopo risponde alla domanda, che è importantissimo perché... Pubblicità. Mix 24. Siamo ancora qui in studio con il senatore Giulio Tremonti, con il quale parliamo del suo libro Mundus Furiosus, edito da Mondadori, e con l'onorevole Boccia, che ha assistito, gestito, in qualche modo indirizzato lo scontro incontro del ministro Padoan con il Parlamento ieri. Eravamo alla domanda di Pietrangelo rivolta al senatore Tremonti. Puoi ripeterla? Ritorno appunto al Mundus Furiosus, il libro del senatore Tremonti, e la domanda è questa: il compimento è sotto gli occhi di tutti, nel senso che l'Europa non dà più il senso della storia alla storia. Abbiamo perso ogni riferimento al sacro, all'orizzonte metafisico, che poi è stato il fondamento anche che ha giustificato il dominio dell'Europa nel mondo. Però mi domando, c'è un unico attore a tutti gli effetti europeo che fortemente si presenta nel gioco internazionale in virtù di un'identità cristianissima, allo stesso modo imperiale, tant'è vero che contiene all'interno dei propri confini 70 milioni di musulmani, e sto parlando della Russia, e credo sia l'unico soggetto in grado di restituire al continente europeo quella dimensione di potenza di mare, schmittianamente, che è stata negata fino a oggi sotto la cappa dell'Occidente. Ecco, non crede che la Russia possa dare un cambiamento, non fosse altro perché è presente adesso in Siria in virtù di una meta che è il Mediterraneo? Allora, credo che sia sbagliato mettersi a fare la guerra, i contrasti contro la Russia. Non credo che la Russia possa essere da sola capace di rianimare l'Europa o l'Occidente, ovvero sicuramente è giusto, come dice lei, non è l'URSS comunista, è la Russia, cioè il grande impero, il grande stato secolare. Secondo, è sbagliato fargli la guerra in nome della democrazia. Come ho cercato di dire in America o in Senato, quando uno va a vedere Yalta, fanno l'accordo Roosevelt, Churchill e Stalin, e non mi risulta che Stalin fosse più democratico di Putin. Detto questo, la Russia è enormemente complicata. È un paese esteso su tantissimi fusi orari ed è un paese che contiene elementi della civiltà europea, la musica, la letteratura, la matematica, ma anche altri elementi che non sono europei. Per essere, come dire, chiari, c'hanno dentro Anna Karenina, ma anche Genghis Khan. Quindi che sia fondamentale, importante un rapporto sì, e non l'ostilità, sì. Che sia questa il futuro dell'Europa. Oggi come oggi, onestamente, io preferisco comunque, pur con tutti i limiti, l'Occidente e l'Atlantico. Però, chiedo scusa, mettere insieme Anna Karenina e Genghis Khan è la tipica caratteristica di una vocazione imperiale. Ed è la stessa cosa per cui noi in Germania abbiamo la compresenza dell'umanesimo e allo stesso modo del prussianismo, cioè di quell'elemento che mette insieme l'unico vero continente del nostro orizzonte, che si chiama Eurasia. Per la verità, Germania c'ha dentro anche un'altra componente, che è quella della tribù. Da certo. Tacito alla struttura certo. Dei consigli d'amministrazione, ti rendi infatti, conto i prussiani che sono più ottomani che europei. Okay. Come diceva Adenauer ai tempi di Weimar, quando col vagone letto passo il Reno, sì, mi sento di entrare in Asia. Sì. Senta, onorevole Boccia, dice qua, ci scrive Emilia. I vagoni letto davano tempo però, per fare una cosa, ho la vaga impressione che ci stiano mettendo nel vagone letto. Un po' nel vagone letto, così vi riposate un po'. Quei treni andavano un po' più lentamente. Vorrei un commento, dice Emilia, vorrei un commento sulla chiamata, parlavamo di digitale, sulla chiamata di Piacentini da Amazon a Palazzo Chigi, lei che dice? Io, Minoli, a lei ho già detto quello che penso. Ascoltatori, no. Penso che ci sia un conflitto di interessi, l'ho già detto, non mi ha convinto la risposta di De Vincenti in Parlamento, anzi l'ho trovata anche per chi, come il Partito Democratico, ha criticato aspramente al tempo in cui non c'era nemmeno il digitale, diciamo, il conflitto di interessi sulle televisioni di Berlusconi e tutto quello che ne è derivato. E far finta che Piacentini non abbia un ruolo in Amazon trovo una cosa abbastanza bizzarra, nel senso che hanno risposto dicendo che ha lo 0,00 qualcosa del numero di azioni, non dicendo che sono diverse decine di milioni di dollari, ma il tema non è quante azioni hai e che ruolo hai. È che se siedi al tavolo della Repubblica Italiana, nei consessi anche internazionali, discuti anche di fisco per conto di Italia, certo. Lei sa quanto è importante questo tema e quanto è importante. Una scelta azzardata, molto azzardata. No, io dico semplicemente che se privatizzazione dello Stato. Se Piacentini giura, diciamo, alla Repubblica Italiana fedeltà e quindi la disponibilità a lavorare per i prossimi 10 anni, benvenuto Piacentini. Se arriva per 2 anni e poi torna in Amazon, qualche dubbio ce l'ho. Tremonti? Ma io la vedo un po' così. Mussolini chiamava Guglielmo Marconi, Renzi chiama questo Piacentini. C'era una differenza. Vabbè, sì, Mussolini diciamo... aveva l'altro Piacentini. Senta, alla fine il quinto fronte del suo libro, è vero, l'altro Piacentini. Alla fine il quinto fronte è quello della, sempre parlando del suo libro. Ci sarebbe Mondo anche Scuro, questo insomma. Nuovo architetto molto importante, senatore a vita. Piano? Che si piano, occupa sì, della, certo. della ristrutturazione dell'Italia. Delle periferie, sì. Senta, lei nel suo libro, il quinto punto, è quello, il quinto fronte, diciamo, è quello della degenerazione dell'Europa. Oramai ne stiamo parlando, siamo arrivati, irreversibile, cioè è necessario trovare un'altra strada. Prima di rispondere, voglio farvi sentire una cosa che ci ha detto... 3 anni fa il professor Guarino, che ha fatto questa fotografia sulla causa della degenerazione dell'Europa, parlando dal punto di vista del giurista. Lei dice che con la creazione dell'euro c'è stato un colpo di Stato. In parole semplici, mi dice perché? La disciplina è approvata da tutti gli Stati con le procedure di approvazione dei trattati. Era fondato su 2 poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. E allora, invece, professor... questi 2 poteri sono stati eliminati. La cosa importante è che sono stati sostituiti da 2 doveri. Il primo dovere è di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo. Il secondo dovere di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo seguendo un programma prestabilito dalla Commissione. Hanno fatto applicare qualcosa di assolutamente contrario, cioè non l'indebitamento 3% come valore di riferimento che puoi superare, ma l'indebitamento zero. Tu non puoi indebitarti nemmeno per un euro, senza che nessuno se ne accorgesse, una norma diversa dal trattato. Ma chi l'ha introdotta sta norma? Purtroppo bisogna dirle con estremo dolore. E anche specialmente da parte mia, è stata per l'Italia Carlo Azeglio Ciampi e per la Germania è stato Weigel. Anzi, è stato Weigel che ha trascinato Ciampi. Ma, dopo la viabilità, Tremonti mi dice la sua su questa affermazione di Guarino e anche Boccia. Viabilità. Mix 24. Ricordo ancora che siamo in studio con l'onorevole Francesco Boccia, il senatore Tremonti, autore del libro Mondo Sfurioso, edito da Mondadori, e il senatore deve rispondere al Guarino. No, certamente a quell'altezza di tempo hanno fatto delle forzature, però contesto, non condivido quanto dice il professor Guarino, dice hanno eliminato il modo per fare la crescita che era l'indebitamento. Ricordo che l'Italia ha fatto una grandissima crescita negli anni 50, 60, 70 e senza debito pubblico. Adesso pensare che un limite alla crescita è il limite al debito pubblico, ignorando che abbiamo il 3° debito pubblico del mondo e che se continui così ci fanno un mazzo così, francamente, che sia fare la flessibilità come dice Renzi o fare il debito per lo sviluppo come dice Guarino, secondo me è un rischio allucinante che imponiamo al nostro paese. Ecco, lei parla della misteriosa centrale del potere, parlando di Europa, però di Bruxelles, come si manifesta la presenza di questa misteriosa centrale di potere? Quello è un pezzo della macchina, e cioè dire noi abbiamo 151 chilometri lineari di nuove regole all'anno, regole europee, 30.952 pagine della Gazzetta Europea. Allora, estese su tutto, perché l'ideologia che si sviluppa dopo la caduta del muro è l'89, l'anno zero della civiltà europea. Abbiamo unificato la Germania, unifichiamo la moneta, unifichiamo la vita degli europei. E quindi regolamentiamo qualunque cosa. Regole per le tazze dei lavandini nei bagni e così via. E questa è una ideologia... diciamo totalitaria, integralistica, ma ha senso che tu imponi a un anziano che vive in una casa secolare sull'Appennino in Normandia di rifarsi l'impianto della luce a carico suo? Allora, no. questa roba qua effettivamente i popoli reagiscono, diciamo, è una delle ragioni per cui la gente vota contro l'Europa è oggettivamente anche questa. E lei, onorevole Boccia, dal suo osservatorio sente questi milioni di chilometri di questa roba non c'entra nulla con la politica, questa è una degenerazione di una classe dirigente che non è stata all'altezza di trasformare il sogno europeo, perché il sogno europeo c'era, ha caratterizzato la vita di decine e decine di milioni di famiglie europee. Io, quando ero studente universitario negli anni '80, sognavo l'Europa e ricordo ancora i dibattiti, 1992 arriva l'Europa e sognavamo di viaggiare e di fare quello che poi è accaduto dopo e di avere la stessa moneta e di avere anche lingue simili. E invece la classe dirigente dei 20 anni che abbiamo alle spalle ha costruito quei chilometri lì. E io penso che sia stata debole, penso che sia stata miope, penso che non abbia avuto una lungimiranza adeguata. Però, Presidente, la classe dirigente in realtà è la politica. Certo. Per esempio, l'ultima finanziaria comunitaria votata nel Senato della Repubblica, io ho votato contro, si occupa, quindi... Ma è degenerazione quella roba lì. Cavolo, però occupa di basilico, rosmarino, salvia fresca e pepe. È degenerazione. Allora vieni e vota contro questa roba. Io vengo e la cambio. E do potere al Parlamento europeo e declasso se serve. Declasso se serve i parlamenti nazionali a consigli regionali. Bisogna avere coraggio di costruire l'Europa. Non esiste. Ecco, allora siamo in chiusura. Io volevo a due nostri due illustri ospiti far fare anche delle previsioni. Quello che succede in America con l'ascesa di Trump, che cosa ci deve insegnare? Intanto, può vincere Trump secondo lei, Tremonti? Ma che possa anche perché molti che lo votano non lo dicono. In ogni caso, come con la democrazia cristiana, che vinca o no è un messaggio contro la globalizzazione o per reazione, per mettere dei limiti, ed è il tentativo di rispondere alla paura di perdere il tuo posto di lavoro sostituito dal computer. Sei d'accordo, onorevole Boccia? No, questo rischio c'è. Io vengo da un'estate, diciamo, trascorso in 4 stati americani e la pancia degli Stati Uniti vota Trump, il camionista vota Trump, il barman vota Trump, il cameriere di un ristorante vota Trump. Tremonte, io penso perché la classe media americana è abbastanza arrabbiata e quindi poi ha il timore del futuro. Spero vinca la Clinton. Non mi aspetto rivoluzioni nel caso dovesse vincere Clinton, ma se non altro non si entra in un futuro, diciamo, un punto interrogativo. Però se dovesse vincere Trump, ha vinto Trump. E sarà la democrazia. Trump ha vinto Trump. Vedremo che succede. Onorevole Tremonti, lei, siamo in finale, abbiamo 1:40. Lei si è schierato sul referendum per il no. Cosa non la convince? In 2 parole, perché deve parlare lei e lui. Ci hanno detto, è una macchina politica nuova, più veloce, più economica e più stabile. Veloce nel fare le leggi, non servono più leggi, anche perché le fanno quelle importanti in 53 giorni. Più economica, non è vero, perché costa comunque il meccanismo molto più dei risparmi. Per inciso, se vuole risparmiare Renzi, venda l'Airbus. E terzo, ed è fondamentale, danno tutto il potere sull'Europa al Senato, un Senato fatto da 100 strampalati a cui non possono mettere la fiducia, e il governo dovrà andare a trattare il nostro futuro, che è l'Europa, con dentro o fuori, con il Senato. Questa è, come dire, la macchina si ribalta in parcheggio. È una follia quella di dare l'Europa al Senato. L'hanno fatta? No. Vota no. Vediamo vota se sì. La macchina esce dal parcheggio o meno, cioè se parte l'organizzazione dello Stato. Boccia, lei per il sì, ci spieghi perché? Perché l'organizzazione dello Stato, seconda parte della Costituzione, ha 70 anni. Avrei preferito il passaggio a monocameralismo, ma è venuta fuori questa cosa. Sì, voto sì, però dico una cosa semplice: non può essere la Costituzione di alcuni contro altri. Se vince il no, non muore nessuno. Mi auguro vinca il sì. Siamo in finale, ultimissima battuta, lei appoggia Parisi che si è impegnato un'opera di ricostruzione del centrodestra, sì o no? Io credo, come dicono gli americani, per fare un dollaro servono 100 centesimi, quindi anche Parisi. Grazie a tutti, pubblicità.